Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Un pochettino in ritardo, ma ci tenevo a presentare questa realtà di incontro nel Last Minute di oggi, che poi troverà sviluppo nella rubrica In Scena. Oggi letteratura con il Voltiamo Pagina, e quindi parallelo al palcoscenico di Teatro Ridotto conosceremo la Biblioteca Torgeir di Bologna, i sentieri del pensiero. E do il buongiorno a tale proposito a Simone Azzu. Buongiorno, so che hai tempi stretti, Simone. Buongiorno, buongiorno. Sì, un pochino, ma ci siamo. Ok, grazie per la disponibilità. A voi. Allora, già è stata intitolata questa biblioteca a un attore norvegese, un attivista culturale, insomma fondatore di un teatro. Quali parallelismi e quali contenuti? E poi dove si trova la Biblioteca Torgeir esattamente? Ma Torgeir Vesal è stato un importantissimo attore dell'Odin Teatret, è amico di Renzo Filippetti, è stato il direttore fondatore del Teatro Ridotto, nato nel 1983. E il Teatro Ridotto si trova a Lavino di Mezzo, quindi frazione di Bologna, e alla scomparsa di Renzo Filippetti ci siamo chiesti che cosa fare di tutti questi volumi e di questa grande eredità di manoscritti, di fax, di testimonianze del Terzo Teatro Internazionale bolognese, e quindi ci siamo messi un po' di impegno, abbiamo archiviato, ed ecco qua che con il contributo del Comune di Bologna è nata la Biblioteca Torgeir. Bene, queste sono indicazioni logistiche, oltre che i contenuti, tante iniziative. Ci puoi parlare anche di tutto ciò, anche di appuntamenti imminenti, se ve ne sono? Ci sarà la conferenza stampa di presentazione alla quale Radio Città Fujiko ci sarà per quanto riguarda Teatro Ridotto, e in biblioteca, Simone? In biblioteca siamo riusciti, con un finanziamento del Corpo Europeo di Solidarietà, a intrattenere una sorta di agenda culturale che ci dà un po' di continuità per quest'anno. Quindi avremo laboratori di drammaturgia storica, abbiamo avuto un incontro di fotografia dal punto di vista dello sguardo femminista, avremo dei responsabili attivisti di Fridays for Future con noi, insomma avremo molti eventi, circa uno ogni due settimane, vi terremo aggiornati, saranno tanti. Certo, e noi ne daremo divulgazione, anche perché premiamo tutto ciò con grande entusiasmo e la volontà da parte dei protagonisti per quanto riguarda l'impegno intellettuale e sociale. Simone, aggiungo, le modalità della biblioteca sono le canoniche, cioè se io mi presento posso consultare. Spiegaci un po' anche, visto che è la prima volta che ci conosciamo, insomma. Certo. Ma per adesso in realtà funziona un po' per prenotazione, perché okay, ancora non riusciamo a garantire una presenza assidua con gli orari canonici. Quello in realtà è l'obiettivo, è il desiderio finale. Però assolutamente i volumi della Biblioteca Torgeir sono volumi a destinazione comune, quindi l'utente si può, insomma, avere un rapporto con la biblioteca e può prendere in prestito i libri, può frequentare la biblioteca, può venire a studiare, a fare ricerca. Già alcuni studenti hanno utilizzato la biblioteca per scrivere la propria tesi di laurea, ad esempio, insomma. E certo, è importante anche in una zona così periferica avere un punto di riferimento, questo è indubbiamente un valore aggiunto, Simone. Beh, in realtà il Teatro Ridotto riesce a mantenere questo ruolo fondamentale di teatro di periferia, che allo stesso tempo chiama molti artisti da tutto il mondo. La rassegna, la stagione di quest'anno, così come tutte le altre stagioni, riesce a portare artisti di fama internazionale in scena, in periferia a Bologna. Quindi nonostante diciamo la marginalità geografica, riusciamo a mantenere un tipo di centralità, ecco, questo è importante. Certo, anche perché da questo sviluppo capillare poi si può trasformare in valore aggiunto per la divulgazione dei contenuti. Allora, sono stato puntuale anch'io, mi hai detto guarda, verso i 53 dovrei iniziare i miei impegni e la mia quotidianità. Bello, perché sei mattiniero e quindi in questo ci incontriamo. Ricambio questa tua disponibilità, perché in questo momento stanno scoccando le 7:53 minuti. Per cui, Simone, perfetto, ci conosceremo alla conferenza stampa di Teatro Ridotto e invitiamo ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fujiko a consultare, a prendere informazioni sulla biblioteca Torgeir, i sentieri del pensiero a Lavino di Mezzo, ovviamente Bologna. Grazie, buona giornata e a presto allora. Grazie a voi, ci sentiamo presto. Ciao. Buona giornata. Ciao Simone, ciao. Ciao. Avevo voglia di questi suoni, così dilatati tra l'ambient e l'elettronica, anche un certo gusto. Stamattina va così. Teatro Ridotto si aggiunge un altro palcoscenico che conosceremo non in questa puntata di In Scena ma dalla prossima. La presentazione ci sarà ufficialmente martedì 16 gennaio e quindi avremo modo poi di portare il programma in approfondimento nella rubrica che alza il sipario sui 103.1. Intanto abbiamo dato un'anticipazione con un importante contenitore culturale, una biblioteca a Lavino di Mezzo, Bologna, biblioteca Torgeir, intitolata Torgeir Wittal, attore norvegese che non conoscevo, e ringrazio chi appunto mi ha segnalato questo approfondimento in last minute, Simone Azzu, che è stato in diretta telefonica con noi, perché insomma conoscere certi divulgatori è sempre qualcosa che porta al Breakfast Club, un motivo di condivisione in più con voi ascoltatrici e ascoltatori della mattina su Radio Città Fujiko. Ancora un po' di musica per arrivare alla pubblicità, poi voltiamo pagina con Silvia Albertazzi, prima puntata del 2024. A tra poco.